43. Quando sentì la scheggia conficcata sotto l'occhio, Henry Hugh decise che non avrebbe fatto la fine del topo. Il tempo scorreva a vantaggio del nemico. Confidare sulla rapidità era stato l'unico errore di un piano semplice. L'avanguardia di Sullivan aveva perso contatto con il grosso dell'armata. I cannoni non erano riusciti a superare un guado e c'era stato bisogno di costruire un ponte. Quelli davanti, intanto, avevano guadagnato almeno una giornata di marcia. L'idea era di attaccarli sulla pista, farli prigionieri e poi riprendere posizione con gli altri per la grande imboscata. Se Joseph Brent fosse giunto in fretta con i rinforzi da Niagara, tanto meglio, altrimenti avrebbero fatto da soli. John Butler aveva approvato l'idea. L'accerchiamento era andato liscio, ma quei 20 bastardi si erano rintanati dietro un pugno di rocce e a quanto pare erano i tiratori più dritti d'America. Non c'era verso di snidarli e prima che finissero le munizioni, gli altri potevano essere lì. 4.000 uomini e una batteria di cannoni. La fine del topo. Hook raggiunse i Butler, che spiavano i nemici da dietro un tronco. «Possono tenerci qui quanto vogliono», ringhiò. «Dobbiamo stanarli». Walter Butler lo guardò in cagnesco, mentre il padre stringeva la mascella nervoso. «Maledizioni a noi!» urlò in faccia Hogg. «Se ci sfuggono, avvertono Sullivan e l'imboscata fallisce!» Hogg guardò oltre il fumo degli spari. Poteva distinguere i capelli rossi di uno dei cecchini. Valutò la distanza in una settantina di passi. Bisognava andargli addosso, non c'era alternativa. Costringerli a mollare quelle dannate rocce, spingerli ancora verso la squadra di Secord, come uccelli nelle reti. La superiorità numerica era schiacciante. Se partivano insieme non avrebbero sacrificato più di 20 uomini. Sperò di non essere nel numero. Lanciò il grido d'attacco e balzò allo scoperto. Mentre iniziava a correre, con le armi in pugno, vide che gli altri lo affiancavano veloci. Fece fuoco davanti a sé, senza nemmeno puntare. Pochi passi, e l'impatto rischiò di buttarlo a terra. I bastardi non si erano lanciati verso la rete, ma contro i battitori. Gli uccelli non lo facevano mai. Vide suo fratello sputare sangue, infilzato da una baionetta. Sguainò il coltello da caccia e si scagliò in avanti. Colpì l'avversario alla gamba, al braccio, al collo, finché non stramazzò. Si strinse al fratello che annaspava a terra. Gli cinse le spalle per sorreggerlo. Il sangue gli tinse le mani, la giubba, la faccia. «Cristo santo, Johnny!» «Harry, sto crepando, Harry!» «Johnny!» cercò di sollevargli la testa, che ricadde inerte. «Johnny!» Il corpo del fratello giacque esamine tra le sue braccia. La squadra di Secord rientrò per ultima all'accampamento. Portavano uomini malconci, con una corda al collo. «Abbiamo preso questi 4, altri 11 sono rimasti per terra», disse Secord. «Se li abbiamo contati bene all'inizio, ne sono scappati 5». Le ultime parole ferirono i guerrieri come una coltellata. I sopravvissuti avrebbero allarmato Sullivan. L'agguato sfumava e la capitale dei Seneca distava meno di 10 miglia. Senza poter contare sulla sorpresa, non c'era modo di evitare la distruzione. L'armata ribelle avrebbe svolto il suo compito, con lo scrupolo che la rendeva già leggenda. La porta occidentale della lunga casa sarebbe crollata e dalla soglia i cannoni di Sullivan avrebbero puntato Fort Niagara. John Butler taceva tetro, lanciò un'occhiata ai prigionieri, ordinò di portare i due bianchi nella sua tenda e lasciò gli Oneida ai guerrieri perché sfogassero la rabbia. Henry Hogg gli si parò davanti. «Perché devono divertirsi soltanto loro?» Butler lo fissò negli occhi e quello che vide lo fece rabbrividire. «È l'usanza con i prigionieri», disse. «Gli indiani agli indiani». Secord spuntò alle spalle del compare, piazzandosi vicino all'ingresso della tenda dove avevano portato i ribelli. Walter Butler affiancò il padre, pronto a scattare. «I bianchi ai bianchi», disse Hugh. Butler capì. Lanciò occhiate intorno. Nessuno faceva caso a ciò che stava accadendo. I guerrieri danzavano in cerchio, avevano sfilato gli intestini dall'addome di uno degli Oneida e con quelli lo legavano al tronco di una quercia. Il sudore gli colò agli occhi. Anche Hogg era madido. Sollevò appena la tesa del cappello e passò una mano sulla pelata, per poi tornare a fissarlo. Butler sentì il figlio spostare il peso in avanti, ma lo fermò con la mano. «All'inferno!» sibilò, prima di allontanarsi, trascinando Walter per la manica. Sulla soglia attesero che gli occhi si abituassero alla penombra. Riconobbero i prigionieri, seduti, le mani legate dietro la schiena. Secord andò a mettersi in un angolo, trovò dei sonagli di tartaruga e cominciò ad agitarli. Hug si accostò a quello biondo e lo guardò a lungo. «Sono il tenente Boyd, dell'esercito continentale americano. Mi dichiaro prigioniero del capitano Brent». Hug annuì, serio. «Tenente, vorreste diventare capitano? O magari colonnello?» Estrasse il pugnale e prese a pulirsi le unghie. Il prigioniero lo guardò, incredulo. «Io no», proseguì Hug. «Niente gradi, niente firma. Da questa guerra me ne vado quando mi pare e nessuno può dirmi niente». Si volse all'altro uomo legato che occhieggiava la lama a nervoso. Harry Hogg fece uno scatto e gli tagliò di netto una narice. Il sangue schizzò sulla tenda. Le urla non richiamarono nessuno. Boyd si contrasse, la faccia pallida e terrorizzata. Secord agitò ancora i sonagli con falsa allegria. «Io sono qui per due motivi soltanto», riprese Hogg. «Il primo era difendere casa mia, giù a Oquaga, ma qualcuno dei vostri l'ha bruciata». Si avvicinò ancora al tenente, gli afferrò i capelli sulla nuca e gli infilò in bocca una manciata di terra. Poi con l'indice prese a scavargli un occhio con la stessa meccanica determinazione che avrebbe usato per cavare il nocciolo da una pesca. «Il secondo è che ci ho preso gusto», disse mentre l'unghia affondava nell'orbita. Il tenente gemette, deglutì la terra, provò a parlare ma una seconda infornata lo rimise zitto. L'altro si fece coraggio. Il sangue gli colava sul collo e sul petto. Disse che avevano informazioni da barattare in cambio della vita. Rimediò un pugno in bocca e l'invito a esprimersi con franchezza, se il labbro spaccato glielo consentiva. «Fateci parlare con il capitano Brent», annaspò il tenente, prima che l'altro parlasse. Hug li guardò e senza una parola uscì dalla tenda. Tornò poco dopo. Secord non suonava più. I prigionieri erano nudi e uno singhiozzava. Il tenente parlò in modo concitato all'indiano che gli si parava davanti. «Capitano Brent, in cambio della vostra clemenza, possiamo rivelarvi i piani del generale Sullivan». «Cosa dice?» chiese il Seneca rivolgendosi a Secord nella sua lingua. «Non importa, vai avanti». L'indiano approntò le braccia. Hug tirò fuori dalla bisaccia un sacchetto di orecchie di porco e si mise a masticarle insieme all'amico, godendosi la scena. Secord riacciuffò i sonagli e riprese a scuoterli per coprire le urla. Alla fine il tenente alzò una mano. Secord si interruppe. Hug deglutì il boccone, si avvicinò e raccolse i sussurri del prigioniero. «Bene, tenente Boyd, ci tenevate che il capitano Brent sapesse questo», disse. «Glielo riferirò. Avete la mia parola». «Pietà!» riuscì a bisbigliare Boyd. La testa cadde in avanti, sul petto di Hug, che prese ad accarezzargli i capelli dorati, ignorando le suppliche del prigioniero. «Ascolta, casa mia non c'è più. Questo te l'ho già detto. E nemmeno mio fratello. Era uno stupido, ma gli volevo bene ed era tutta la mia famiglia. Magari l'hai ucciso tu, magari no. Il caso ha voluto che tu capitassi sulla mia strada, proprio oggi. L'insondabile volontà di Dio. Per noi due la guerra finisce qui. Ti porto con me a Genisio. Accoglierai il tuo generale, come si conviene».